disgrazia di noi, come si fa? Che avvenne mai? La scala, ben, la scala non v'è più. Che dici? Chi mai l'avrà levata? Quale inciampo crudel! È sventurato! Zitti, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa? Mia Rosina, coraggio! Eccoli qua! Don Bartolo! Don Bartolo! Don Basilio! E quell'altro? Beh, beh, il nostro notaro! Allegramente! Lasciate fare a me! Signor notaro, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo, ma piano. Don Bartolo, dov'è? Ehi, Don Basilio, quest'anello è per voi. Ma io? Per voi, vi sono ancora due palle nel cervello, se vo' ponete. Oimò, prendo l'anello, chi firma? Eccoci qua, son testimoni, Figaro e Don Basilio, essa è mia sposa. Evviva! Oh mio contento! Oh sospirata mia felicità! Evviva! Fermi tutti, eccoli qua! Le buone signore! Signor Sollarri! Arrestate, arrestate! Mio signore, il suo nome? Il conte d'Almaviva, io sono. Insomma, io ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu briccone, tu pur tradirmi e farla testimonio. Ah, Don Bartolo mio, quel signor conte, certe ragioni in tasca, certi argomenti a cui non si risponde. Che Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la scala dal balcone. Ecco che fa un inutile.